Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno, in questo 31 gennaio. Ancora, è finito già il primo mese, Madonna, dell'anno nuovo. Ma come vola il tempo, mamma, come invecchi velocemente. Lo so, purtroppo che devo fare. Allora, anche e oggi non guardarmi fissa negli occhi anche mentre me lo dici. Che cosa hai detto? Non guardarmi fissa negli occhi mentre me lo perché dici. Perché ti inibisco? Può darsi. Può beh, darsi. Dipende da come uno guarda negli occhi, caro Ciccio. Infatti. Potrei anche. Infatti. Allora, l'articolo di Focus.it, 11 cose che forse fai ma che i cani non piacciono, vi riassumo i punti che abbiamo già discusso. Usare le parole più che il linguaggio del corpo. Secondo punto, abbracciarlo forte. Ovviamente tutte cose che non piacciono quelle ai cani. Che non piacciono. Fargli pat pat sulla testa. E oggi parliamo di guardarlo fisso negli occhi. Quindi, giusto appunto, quando che effettivamente se tu noti o se uno non ci conosce ci fissa negli occhi, iniziamo a dire oddio cosa sta cercando di dirmi, un po' inquieta a noi esseri umani, ai cani ovviamente anche, perché se è una persona con la quale loro non hanno confidenza li può mettere a disagio, li può far paura. Ma questo è esattamente quello che tu hai detto, è la cosa principale. Cioè non è che guardare un cane negli occhi è sbagliato in generale. Certo. Quello che succede sia con i cani sia con le persone è che guardarsi negli occhi aumenta l'intensità di quella comunicazione. Per quello gli innamorati si guardano sempre bravissima negli occhi. Cioè tra innamorati è bellissimo guardarsi negli occhi. Tra due persone che si sfidano, guardarsi negli occhi aumenta l'intensità e questo può portare allo scontro. Quando un estraneo ti fissa negli occhi diventa insistente, può metterti in imbarazzo. Certo. Quindi a seconda della situazione guardarsi insistentemente negli occhi rafforza quello che già c'è. E questo succede anche col cane. Questo è quello che in realtà bisogna tenere presente. Non è che guardare negli occhi il cane è sempre sbagliato. Questo mi veniva in mente quando molto tempo fa i miei insegnanti mi dicevano non si guardano i cani fissi negli occhi. Poi andavo a casa delle signore con i loro cani, vedevo i loro cani che li guardavano innamorati. E loro li guardavano, si guardavano intensamente negli occhi, li accarezzavano con un tono di voce gentile e si vedeva che quello era uno scambio emotivo molto bello. Quindi io dicevo ma allora non è sbagliato guardarsi negli occhi. Quindi non è in generale sbagliato, dipende con che cane, se è un estraneo, se è il tuo cane, in che modo lo fai. Dal momento anche, perché anche con il tuo stesso cane, se non è quel momento di relax, pacifico, eccetera, può effettivamente creare dei problemi. Infatti io quando Morfin fa qualcosa che non va, tipo che mi marca a casa, lo capisce immediatamente da come lo guardo e si incazza lui. No, io che mi ha marcato a casa, si incazza lui. Facciamoci delle domande. mi sono data anche tante risposte, sa, dottore. Quindi voglio dire, il fatto di fissarlo negli occhi potrebbe metterli. Tant'è vero che ho una mia amica, perché quest'articolo sottolinea anche il fatto che non solo il fatto di fissarli potrebbe dar fastidio, ma se gli parli con un tono di voce troppo alto, troppo squillante, se hai anche un atteggiamento minaccioso col corpo. Assolutamente, perché guarda, una cosa che io faccio sempre nei miei corsi, a proposito di sguardo, direzione, posizione, eccetera, che faccio mettere a due persone come se stessero al cinema, una a fianco all'altra, la fermata del bus, no? Uh-huh. Allora, se sono una a fianco all'altra e guardano lontano, nella stessa direzione, non c'è nessun problema. Mm-hmm. Ma se uno dei due invece gira la testa verso l'altro e lo guarda tipo in ascensore se uno ti guarda insistentemente, anche se tu non lo stai guardando, percepisci tantissimo questa pressione sociale. Anche se la distanza si cioè pensa è più comodo, ti fa sentire più a tuo agio avere una persona a fianco a distanza di 20 centimetri che guarda altrove che una persona a 3 metri o a 10 che si gira e ti fissa. Basta che però sul tram non ti faccia la mano morta. Altrimenti non. Se ti fa la mano morta mentre ti guarda, no, ma non forse ti è tuo marito. E allora chiediti. Ma non ti fissa. Senti, no, è vero tutto ciò, perché ti stavo dicendo, una mia amica che entrava in casa quando il chihuahua era piccino, un giorno l'ha sgridato e l'ha fissato negli occhi, perché lui aveva il vizio di leccare sotto le suole delle scarpe degli ospiti. E quel giorno lui l'ha segnata. Tutte le volte che la sentiva parlare da giù iniziava lui a abbaiare. Quando saliva lei lo guardava, gli si chinava fuori, gli diceva ma non ti sto facendo niente, io ti voglio bene. Il cane abbaiava, le mordeva i polpacci, faceva di ogni. Ecco, figurati. Quindi oggi sappiamo perché, insomma. Oggi sappiamo grazie perché, a questa trasmissione sappiamo perché incombere sul cane non va bene, guardarlo fisso negli occhi non va bene, quindi dobbiamo fare altro. Qual è allora il modo migliore per approcciarsi ad un cane se è un cane sconosciuto? Come abbiamo detto, che col proprio cane va bene, cioè te lo dice il cane quando va bene. Certo. Se tu lo guardi negli occhi e hai delle reazioni come leccarsi il naso, distogliere lo sguardo, sbadigliare, girare la testa, sai che quella intensità è troppa e allora evita anche tu. Può essere necessario addirittura anche sbattere gli occhi, chiuderli per far avvicinare un cane. Questo è un segnale che dà di pacificazione, che dà agio all'altro, mettersi di fianco anche, anche addirittura abbassarsi. Non abbassatevi invece con cani che si mostrano ostili, aggressivi, soprattutto se sono cani di grande taglia. Rimanete in piedi e muscolatura rilassata, guardate altrove. Che questo credo che valga anche per persone che hanno carattere così, quindi con persone ostili non vale, non bisogna mettersi in condizione di essere sovrastati, piuttosto che, ma io trovo che non ci sia differenza fra rapporto fra uomo-uomo e uomo-cane. Sì, delle differenze ci sono, però sappiamo che ci sono tantissime somiglianze. Ma soprattutto la differenza sostanziale è che i cani sono migliori degli uomini. Questo è, c'è il motto di Rosita, uomini. Soprattutto degli uomini maschi, poi. Sei contento? Sì, contentissimo. Allora, i cani come sempre ci insegnano tanto e ci insegnano di interrogarci sulla nostra comunicazione non verbale. Assolutamente sì, e adesso i nostri cani ci stanno insegnando che dobbiamo ascoltare il traffico. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci qui, chiedimi se sono felice. Allora, abbiamo parlato tante volte, cioè a proposito di felicità, no? Che cos'è che ti rende felice, che cosa non ti rende felice, via dicendo, ma c'è qualcosa che rende più felici le persone. In questo caso stiamo per parlare di bambini anche. Che è fondamentale. Che è la pet therapy. Esatto. Allora, è appena uscito un libro, cara Rosita, edito da Amrita, i cui autori sono Alberto Dal Negro e Silvia Fusaro, che si chiama Pierino e il cane lupo. Bully Dog, vincere il bullismo con l'aiuto dei cani. Allora, siccome Alberto Dal Negro è un amico... Fantastico, perché almeno... È un amico, è una persona che conosco da tanto tempo, gli ho chiesto di intervenire nella nostra trasmissione così che ci potesse raccontare. Alberto, sei in linea? Ciao Alberto, piacere, è la prima volta che invece io ti conosco almeno per voce intanto. Allora, Alberto Dal Negro è presidente di una cooperativa che si chiama Gli Amici di Sari, che opera a Bolzano, ed è una cooperativa che si occupa proprio di pet therapy. Allora, com'è nata sta cosa del bullismo, gli animali che aiutano il bullismo, i bambini, come succede, cosa c'è dietro? Allora, c'è da dire che di questo fenomeno se ne parla anche troppo, nel senso che se ne parla magari in maniera neanche corretta, facendo un po' di confusione fra delinquenza e bullismo. Il bullismo come intervento, come fenomeno così di prepotenza, è qualcosa che a un certo punto ha allarmato anche alcune scuole di Bolzano, monitorate dai distretti sociali. Quindi un'educatrice di distretto, Silvia Fusaro, che è coautrice poi del libro, a un certo punto ha pensato bene di provare anche a battere la strada degli animali in classe. Per quello abbiamo creato una rete con distretto sociale, intendenza scolastica, psicologo dello sportello, la polizia municipale, tutte le persone che avevano a cuore il benessere dei bambini. Ma quindi in modo specifico che cosa avete fatto? Cioè... Si è deciso, chiaramente, dopo aver strutturato un'equipe che potesse dare un po' di direzione a questo tipo di intervento, una serie di incontri in classe con gli animali, con i cani in particolare, presso alcune classi di una scuola media, dove c'erano delle dinamiche un po' così problematiche, difficili. Entrando con i cani in classe è cambiato improvvisamente il clima, l'atmosfera. Bello. Quindi l'atmosfera prima era proprio quella del bullismo, cioè c'era l'insegnante a scuola, qualcuno che aveva detto attenzione perché qui ci sono delle dinamiche tra questi ragazzini che non vanno bene, giusto? Esattamente, c'erano insegnanti un po' preoccupati, dirigenti ancora più preoccupati, famiglie preoccupatissime, e chiaramente noi non è che andiamo a indirizzare il nostro intervento su le persone specifiche, che è quello che si aspettano tutti. Ma voi cosa portate in classe? Rottweiler, Doberman? No, noi portiamo dei cani spaccioconi. Ma scusa, mi racconti qual è stato l'impatto del cambiamento proprio di... mood della classe da prima che entrassi con i cani a dopo? Ma allora, prima non lo sapevo, posso solamente raccontare quello che mi dicevano, di rapporti molto problematici, confettuali, sì. Quindi di difficoltà di gestione da parte dell'insegnante. Sì. Dinamiche. E noi entrando in classe, che cosa abbiamo fatto? Dopo aver preparato i ragazzi solamente all'incontro con l'animale, ossia dicendo attenzione, il cane quando entra in classe è emozionato al pari di voi, mm-hmm. incontrarlo, quindi fatevi, cioè osservate quello che succede, fatevi annusare e quindi mm-hmm. cerchiamo di creare un clima un attimo di accoglienza. Sì. Entriamo con i cani e con i cani cosa succede? Innanzitutto entra un'energia diversa nella classe. E c'è questa osmosi che si annusa subito, insomma, no? Cioè, mm-hmm. c'è un clima veramente che cambia. C'è un livello di attenzione che sale a livelli altissimi e questo stupisce gli insegnanti che dicono ma come? Cioè, faccio fatica a tenerli attenti 5 minuti e qua un'ora di attenzione al massimo livello, bellissimo. Sì. Ci siamo accorti che in quest'ora qua, che poi abbiamo fatto 7-8 incontri durante l'anno in queste classi, quello che succede di splendido è che è talmente alto il livello di attenzione e di interesse che qualsiasi messaggio educativo inserito in questo contesto viene interiorizzato al volo. Immediatamente. Cioè praticamente è come se la presenza del cane rimuovesse quei blocchi cognitivi di, non so, fiducia, emozionali anche, no? Fiducia, ascolto, attenzione, memoria, integrazione con il proprio vissuto. Cioè il cane agevola questo passaggio, no? Questa comprensione. È proprio questa la dimensione con cui i cani riescono a lavorare, no? Cioè su cui riescono a incidere. Il livello emozionale. Teniamo presente che sia il bullo che le vittime, tutti gli altri bambini, dico anche tutti noi adulti, no? Ci mettiamo dentro anche gli insegnanti mm-hmm. in mezzo, nel momento in cui hanno un disagio, hanno diciamo un movimento emozionale piuttosto forte, quindi emozioni in subbuglio. Il cane intercetta queste emozioni, sì. Quindi si connette con il nostro mondo interiore, e praticamente agisce a quel livello lì creando un movimento, cioè dei sentimenti positivi che danno una direzione positiva alle emozioni dei ragazzi. Che, bellissimo. Anche se gli incontri avvenivano una volta ogni 2 settimane mediamente, dopo un'ora di incontro con l'animale questo movimento continua per giorni e per settimane. È fantastico, sono degli angeli inconsapevoli i nostri cani. Esatto. I cani sono veramente credo che siano gli angeli custodi fatti materia, perché io sto scoprendo delle cose che sono veramente emozionanti. Questa cosa qui io mi auguro che chi la sta ascoltando la prenda in considerazione per portarla in tutti quei luoghi dove ci sono questi problemi. Mm. Beh, sarebbe l'ideale. Ma poi siamo arrivati ad un punto particolare, cioè l'animale, dicevi tu Alberto, si connette alla parte emotiva dei bambini, dei ragazzi. Esatto. Quindi è un intervento che viaggia più sull'emozionale. Viaggia squisitamente sull'emozionale, e quello che ci richiedono tutti gli insegnanti quando si approcciano a questo tipo di intervento, dicono bene, ma come strutturate l'intervento? Ecco. Sapendo che questo è l'obiettivo, quindi l'obiettivo è il benessere dei ragazzi e migliorare le relazioni fra l'uno e l'altro, mm-hmm. e noi li sorprendiamo dicendo lo strutturiamo destrutturando completamente quello che si fa di solito a scuola, pensare certo. Che prima c'è questo. Allora, il cane non è uno strumento che si può utilizzare, il cane è un essere senziente che ha una sua propositività gioiosa, quindi una sua profondità anche di intercettazione di questi sentimenti, di questi pensieri che animano i ragazzi, e quello che proprio su cui si fonda l'intervento è proprio quello lasciare anche ai cani sì. Proporsi e assecondare le attitudini e quello che il cane propone in quel momento, spiegandolo ai ragazzi, quindi dando voce ai cani. E cosa succede? Succede che, non so, il cane entra e va magari da un ragazzo in particolare e quello che fa può suscitare il sorriso o l'emozione uh-huh. e si lascia proprio andare. L'importante è che i ragazzi in questa situazione, che è non giudicante, uh-huh. accogliente totalmente, si lasciano andare. Vedi, questa, bello, bellissimo. Questa è vera educazione, cioè l'educazione, sì, all'accoglienza, l'educazione al non giudizio. Questo è quello che manca oggi alla nostra cultura proprio. Io guarda, sono veramente contento di quello che stai dicendo, Alberto. Oltretutto perché, essendo un po' nel mondo, no, nel mondo cinofilo, buona parte della cinofilia che si occupa di pet therapy, al contrario, tende a strutturare molto. Cioè si studia talmente tanto e si teorizza talmente tanto che poi alla fine ci si relaziona con l'idea che hai del cane e non col cane stesso. Infatti. Anche perché sotto, cioè, la dicitura pet therapy tutti sanno che è un rapporto con l'animale per i bambini, ma in modo specifico poi nessuno magari sa spiegarti bene che cosa succede o che cosa si fa. Sì, che poi pet therapy non è solo bambini, però il punto è proprio questo. Uno si immagina che balli il cane, non so, magari deve fare degli esercizi specifici, delle, sì, cose, esatto, per forza. Invece così, in realtà, che magari qualche volta può pure fare. Invece il modo che a me piace di operare degli amici di Sara e di Alberto è che lavorano più appunto su questo piano emozionale. È più... scegliendo noi di adeguarci al mondo del cane per poterlo comprendere, no? Esatto. E attraverso, esatto, il mondo del cane comprendiamo di più noi stessi poi. Ma infatti alla fine cosa succede? Parliamo di ragazzini che, come dicevo, hanno un mondo emozionale in subbuglio. Mm. Il cane porta, cioè, li porta a un livello di confronto, mm, con un essere che è emozionale allo stato puro, ma di fatto, e è quello che può dire ciascun proprietario di animali, insomma, di cani, alla fine il cane mi costringe a confrontarmi con me stesso, perché io mi accorgo che le emozioni che ha il cane, i comportamenti che ha il cane, sono un po' quelli che mi caratterizzano, per cui diciamo che stimola una riflessione interiore e quindi, certo, una crescita, e si lavora quindi anche sull'equilibrio. E quindi parlaci un pochino di questo libro, Alberto, cioè come è strutturato. Come è strutturato? No, perché io vedo che parla di bullismo e dintorni, quindi c'è un'introduzione generale sul bullismo. Ah, anche te questo buddismo. La seconda volta. Guarda che, che è una deformazione personale, questa, sì, qua del buddismo. Sì, bullismo. Quindi parla un po' del bullismo, poi insomma l'esperienza di questo progetto, no? Il progetto, diciamo, rappresenta un po' il cuore, però quello che, se vi posso dire, una volta che ho ultimato questo libro insieme a Silvia Fusaro, me lo sono riletto, quello che mi ha colpito è una cosa che mi ha lasciato un attimo quasi scioccato, perché alla fine cosa succede? E dentro è descritto anche come analisi sociologica di quello che del perché i ragazzini, c'è un livello sempre più problematico dei ragazzi di oggi, perché a loro manca un punto di riferimento, una stabilità, certo, vuoi per la frammentazione delle famiglie, certo, per i flussi migratori, perché per mille motivi, anche a livello urbanistico, c'è un'analisi piuttosto precisa in questo libro, viene fuori praticamente che questa difficoltà loro è data dal fatto che non c'è un riferimento costante che è rappresentato dall'adulto, dal bambino. Esatto. Quindi alla fine ho detto, ma caspita, ma allora la problematicità del bambino su cui noi andiamo e tutti fanno progetti dipende dal fatto che noi adulti non siamo coerenti, quindi che esempio diamo a questi giovani? E faccio sempre un po' il paragone un po' con la politica, no? Cioè, se uno dice una cosa e ne fa un'altra... E noi adulti tutti, ci metto dentro come educatori, come famiglie, come amministratori, non diamo questo, cioè non siamo il faro, sì, che illumina un po' i nostri... Sì, non diamo il buon esempio, non hanno un esempio a cui far riferimento, certo. Alla fine, quindi, questo libro qua, diretto ai ragazzini, agli insegnanti, alla fine è per tutti noi adulti, perché siamo noi che dobbiamo cambiare. Se molto noi cambiamo... bello. Pronto? Sì, sì, ci siamo. Ok. Ecco, quindi questo mi ha lasciato un po' perplesso. Quindi senti, guarda, sono felicissima di averti conosciuto intanto attraverso la radio e il telefono. Grazie di questo libro, adesso me lo leggerò io. Andate su Google a cercare Gli amici di Sari a Bolzano, siete a Bolzano, e il libro si chiama Pierino e il cane lupo, vincere il bullismo con l'aiuto dei cani, edito da Amrita, autori Alberto Dal Negro e Silvia Fusaro. E speriamo che in tanti possano incominciare a prendere esempio da questa esperienza di cui ci parli tu. Grazie mille Alberto. Grazie infinite Alberto. Grazie a voi. A presto. Grazie, ciao. A presto. Adesso un break e poi torniamo subito. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Che meraviglia però passare domenica ad ascoltare Chiedimi se sono felice, vero? Ah sì? Eh sì, perché io mi immagino la gente che ci ascolta in macchina, a casa, a letto, mentre mangia, mentre dorme, mentre fa l'amore, ed è più felice. Ed è più felice. Come di solito tende ad essere generalmente felice una particolare razza di cane. Ah sì? A Rosy, ti piace il boxer? Sì, una volta dicevano che erano, quando ero piccola sentivo dire che era il cane dei bambini, anche lui, tutti i cani dei bambini. Tutti i cani dei bambini. Beh, il boxer è particolarmente tollerante, però ovviamente dobbiamo stare attenti ai nostri bambini quando vanno a cacciare le dita negli occhi del cane. Cioè di qualunque cane, non solo del boxer. Allora, siccome c'è una mia amica, una dottore cinofilo Think Dog, che si occupa nello specifico di boxer, ma in un modo particolare, tra poco ne parliamo con lei, l'ho invitata ad aggiornare. Quindi Bravo. Abbiamo con noi Simona Ricci di Roma. Ciao Simona. Ciao Angelo, ciao Rosita. Ciao Simona, piacere. Allora Simona è consigliere e operatore, perché ci lavora, all'interno di un'associazione, di una onlus che si chiama Adotta un Boxer per la Vita, giusto? E quindi, insomma, ti ho invitata qui in radio sia per parlare appunto in generale del boxer, di come nasce questa tua passione, via dicendo, sia per il fatto che Adotta un Boxer per la Vita è una particolare associazione, è un rifugio di razza, un rescue di razza. Cioè, cosa vuol dire? Si occupa proprio di quei cani abbandonati, lasciati, insomma, che hanno bisogno di essere adottati, ma è specializzata nei boxer, perché ci sono appunto questi rescue di razza che si specializzano in una particolare razza, così che una persona, quando è appassionata di una razza di cane, invece di andarlo a comprare, può anche salvare una vita, giusto? Sì, ho detto bene? Ah, vedi come l'ha spiegato bene il nostro prof. Il nostro prof. Senti, ma Simone, allora raccontaci un pochino di più della vita di questa associazione, come che funziona? Allora, Adotta un Boxer nasce dalla passione nostra, mia, di Annalisa, di Andrea e di altre persone che ci aiutano, per il boxer ovviamente. Tutti abbiamo avuto esperienze personali con questa razza che ci ha segnato e in qualche modo ci è rimasta nel cuore. Sì. Per questo motivo abbiamo scoperto, nostro malgrado, che molto spesso anche i boxer finiscono in canile, per strada, abbandonati, la gente se ne disfa. È una cosa che non è facile da sapere, perché non tutti sanno che anche i cani di razza, e non solo i boxer, tutte le razze vengono abbandonate. Ah sì, certo, certo. Non soltanto i medici. No, esatto. A questo punto ci siamo appassionati a questa situazione. Sì, esatto. E abbiamo iniziato a mettere in atto una serie di azioni per cercare di salvarne il più possibile. Abbiamo iniziato nel 2009 e stiamo continuando tuttora, migliorandoci sempre di più, perché ovviamente si impara poi facendo. Certo. Quindi abbiamo imparato e limato meglio le nostre competenze anche per quanto riguarda le adozioni, che è la parte più delicata, e abbiamo anche cercato di migliorare poi nel corso degli anni e del tempo anche la permanenza dei nostri boxer nei rifugi e nelle pensioni a ci appoggiamo. Ok. Senti, ma hai una stima generale di quanti boxer avete fatto adottare nell'ultimo anno? Siamo intorno agli 89. Wow! 89 boxer, sono tantissimi. Sì. Sì, non sono pochi. Purtroppo negli ultimi 2-3 anni ce ne sono tantissimi abbandonati. È aumentato. Non so se è la crisi o se è la facilità con cui le persone prendono e acquistano cani. Ma ve li portano direttamente lì o li trovate, ahimè, in giro per strada, abbandonati così? Allora, qualcuno viene trovato per strada, questo purtroppo soprattutto al sud, per cui è già in pessime condizioni. Noi abbiamo una rete di volontari che ci aiuta, quindi li recuperiamo lì, dopodiché appunto quando sono in grado di viaggiare li portiamo o qui a Roma da me o a Casale Monferrato, che è la sede principale dell'associazione, e insomma continuiamo poi a cercargli casa. Altri sono i proprietari che ci contattano per scaricarli, diciamo così, e altri ancora sono i volontari che magari ce li segnalano nei vari canili o rifugi d'Italia. Ah, certo. Perché ormai siete conosciuti, perché vedi, man mano che un'associazione va avanti, pian piano viene conosciuta, quindi quando uno vede un boxer in un canile dice: contattiamo subito Adotta un Boxer per la Vita. Sì, esatto. Perché così quel cane ha più chance magari di essere non soltanto adottato, ma anche affidato ad una famiglia che sappia che cosa vuol dire prendere questo tipo di cane, questo certo. tipo di razza. Via Quali sono i pregi di questo cane? Cosa te piace? I tratti? Che te piace del boxer, Simone? Parlando con me è facile. ce ne sono tutti i pregi. Ah, certo. Poi no, ti dico i pregi di Vaira, io, se vuoi. Sì, certo. Facciamo uno scambio. Pregi del boxer con i pregi del dottor Vaira. Adottatemi. Va bene. Allora, innanzitutto è un cane che è molto legato al proprietario, cerca continuamente la prossimità, la vicinanza, il contatto. È un cane molto coccolone, si avvicina, insomma, e, cerca... E anche, e anche questo, scusami, no, per fare un parallelo al pregio di Vaira. È molto coccolone, cerca la vicinanza e il contatto. È un po' un boxer, allora. Mi sa che è un boxer. Un po' un animo boxer. Sai che volevamo fare, Angelo, quel gioco di capire a chi assomiglia il cane, a quale personaggio assomiglia il cane. Sta venendo fuori le tratti del boxer, vai avanti. Eccolo lì, vedi. È un cane molto energico, attivo, quindi porta a fare parecchio movimento, passeggiate, giochi, è un cane molto divertente ed è comunque, secondo me, un cane che è assolutamente adatto alla vita in famiglia, perché si ambienta perfettamente ai ritmi, prende il ritmo del proprietario, lo segue, è molto, molto si adatta facilmente. Si adatta diciamo che qui Vaira un po' è un po'. A questo punto sono più una Alaskan Malamut. Non è proprio un boxer, okay. Non è proprio un boxer, no. Ma poi? Diciamo che l'altra cosa che forse piace a noi amanti del boxer è il muso, ovviamente, perché è un muso che è quasi una faccia, no? Amore, quindi sì, sembra quasi la faccetta di un bambino, e poi la cosa bella è che gli rimane la faccia da cucciolo perennemente. Vedi, almeno questa è la mia impressione. Cioè, ma senti con che tono che lo racconta, capito? Sì, è vero, e poi gli rimane questa faccia è proprio tutta la vita. È vero, godereccia. Sono quelle malattie che una volta che ti prendono poi... sono croniche, non te passa più. Esatto. Bellissimo. Quindi tante... Ma senti, oggi la coda al boxer non si taglia più, mi auguro. Non si taglia più, ma... neanche le orecchie, per fortuna. Adesso abbiamo un sacco di bei boxerotti con orecchie lunghe, sì. Ecco, sai che a volte le persone trasgrediscono, no? Cioè, quindi sì. Cioè, tu mi confermi comunque che sono tutti con la coda, anche se la legge dice così, qualcuno dice che me ne frega, io taglio comunque qualcuno si inventa che la coda era rotta, qualcuno si inventa che la coda era rotta e la tagliano, qualcuno c'è arrivato così, con il certificato del medico che ha attestato il taglio della coda perché si era rotta. Allora, amici che ci ascoltate, basta con i tagli delle code. Ci sono dei cani dove effettivamente la coda può avere dei problemi, ma fatevi aiutare da un medico veterinario coscienzioso. Quindi, sì. E nel caso del boxer mi risulta comunque che non abbia questo genere di problemi, no? Cioè, non è come la coda di un cane corso, per dire. Sì, che... sì, assolutamente no. Però, per esempio, scusami, adesso che assomiglia come faccia... Adesso tu non ti arrabbiare, ma voglio dire che sono sì, che hanno il muso schiacciato, i boxer, i bulldog. Ma il bulldog la coda non ce l'ha. È a cavatappi, diciamo. Ma perché la sua coda è a cavatappi? Sì. Perché la proprio sulla sua... Ah, ok, no, perché adesso ho avuto un flash. Si dice a cavatappi, no? Ricorda un po' il porcellino, se sono code corte. No, il muso del boxer non assomiglia al muso di Vaira, comunque. Beh, però anch'io ho una faccia. Sì, è una faccia. Sembra che una faccia anch'io. No, stavo pensando, secondo me Vaira è un incrocio fra un boxer e un chihuahua. Senti, Simona, ma questa cosa dei rifugi di razza, no? Cioè, l'idea vi è nata così, oppure voi sapevate già che c'erano i rifugi di razza come idea? Cioè, come... Noi personalmente siamo nati come gruppo, ma conoscevamo già un'altra rescue di boxer che lavorava in Italia, e quindi poi noi abbiamo provato a collaborare, poi insomma ci sono mille difficoltà, abbiamo aperto un'altra rescue. Allo stato attuale in Italia mi sa che ce ne sono addirittura 4. Quindi, solo dei boxer? Sì. E di altre razze zero? Eh no, ce ne sono. No, ce ne sono. Facciamo degli esempi, te ne viene qualcuno in mente di altre razze? C'è la Bull Terrier Rescue, c'è il pastore tedesco, il Doberman, il dog argentino, l'alma del dog. Certo, sì, alma del dog. Dog argentino. Diversi, sì. Sembra anche che il nostro Sergio Stefani, il nostro amico se stia adoperando per un rifugio di razza del cattle dog, e non vedo l'ora. Che non so quale sia. È un cane australiano fichissimo, ecco, io mi sento un po' un cattle dog, è un cane molto vicino a me. Ecco, e quindi il pregio, aiutami a capire quindi come funziona. Se una persona oggi vuole adottare un boxer, cerca la vostra associazione su internet, giusto? Cioè, oppure gliela segnalano, vi contatta e voi dite, vediamo se c'è un boxer a disposizione per voi. Cioè, come funziona la trafila? Allora, noi abbiamo una procedura un po' particolare che ci siamo studiati negli anni. Sì. Quindi abbiamo prima una telefonata che si fa con la presidente, che è Annalisa, perché diciamo così fa una prima scrematura, no? Perché ovviamente, ecco, noi per esempio i cani da tenere in giardino non li diamo, quindi chiaramente se una persona non li vuole in casa la telefonata non la supera. Perfetto. Dopodiché c'è la compilazione di un questionario che abbiamo studiato noi insieme, e se si supera il questionario c'è il controllo preaffido da parte di un educatore cinofilo, per nostra scelta, d'approccio cognitivo. Benissimo. E superato il controllo, si sceglie il cane adatto alla famiglia, perché spesso a volte succede che la famiglia magari ha visto un boxer in particolare, ma quel boxer in particolare non è adatto al contesto familiare. Certo. Quindi si sceglie un altro cane adatto alla famiglia, se ne parla con la famiglia, se la famiglia è d'accordo ovviamente il boxerino arriva a casa con l'aiuto di un educatore che appunto fa l'inserimento in casa e poi segue il percorso che è obbligatorio per la nostra rescue. Ah, quindi c'è un percorso educativo obbligatorio per se uno vuole un boxer, di adottare un boxer per la vita. Sì, davvero. Mi sembra fantastico, bravi, guarda. E poi? E dopodiché, diciamo, si firma ovviamente un modulo d'affido, passati 4-8 mesi, dipende dal tipo di cane, perché magari c'è qualche cane che ha qualche difficoltà in più, si passa al passaggio di proprietà, modulo d'adozione, eccetera. Vedi, perché uno, se ha il cane ma non si dimostra un bravo proprietario, perché viene fuori, che so, durante il percorso educativo per vie traverse, il cane dice non può stare con voi, giusto? Esatto, sì. Fantastico. Vedi, è capitato poco, ma è capitato. Vedi, questa è l'adozione consapevole, no Rosita, quando ne parlavamo. Cioè uno si deve rendere conto che questa è un'adozione, non è prendo il cane. Bravi, bravi, ma siete bravi voi, perché ci sono altri che magari, pur di dire ne ho adottati tot, prende, li molla, poi magari li riabbandonano o comunque vivono in condizioni... Insomma, fare il lavoro fatto bene necessita di attenzione, di competizione, bravissimi, di sensibilità. Cosa che mi sembra che voi avete. Bene! Grazie. Complimenti. Bravi. Complimenti. Bravi ragazzi, quindi andate su internet e cercate adotta un boxer per la vita se state valutando di adottare un boxer, o altrimenti cercate magari un altro rifugio di razza se siete appassionati di altre razze, oppure i canili, che grazie, noi sponsorizziamo sempre. Grazie Simona, a presto. Grazie, grazie Simona, a voi, Ricci, a presto. Ciao, un abbraccio. Ciao. E adesso mi raccomando, attenzione al traffico. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rieccoci. Rieccoci. Ah, sì. Rosy, te c'hai paura di prendere gli aerei, io, no? Io purtroppo sì, anche se mi piace molto volare. Tu no? Che fai ganassa? Ma va, io prendo aerei pure sulle ali, mi metto. Ma questa poi tra l'altro... Sì, a giocare a tennis. Come... Esatto. È una tradizione di famiglia, so. La mia di volare? Sì, parecchio di famiglia. Beh, i miei hanno smesso nel 1903 di prendere un aereo. Prima che nascessero praticamente. Esatto. Allora, alcuni hanno paura di volare, altri vorrebbero volare con il proprio cane ma non lo fanno perché sennò il cane viene messo nella stiva, no? Però ci sono delle persone che questo privilegio ce l'hanno. Ah, sì? Abbiamo al telefono Benedetta Argentieri, che è collaboratrice del Corriere della Sera e giornalista freelance. Lei vive tra l'Italia e gli Stati Uniti. Lei riesce a portare il cane in cabina. Ci facciamo raccontare come e perché. Benedetta. Ciao, buongiorno. Ci senti? Ciao, buongiorno. Benedetta, buongiorno. Ma il tuo cagnolino pesa più di 10 kg? Ne pesa 22. Fischia. Di che razza è? È un meticcio che ho preso al canile 14 anni fa. No, 12 anni fa ormai. Ah, vedi. Senti, ma allora raccontaci un po' questa storia. Cioè, perché il tuo cane può stare in cabina con te sull'aereo? Perché negli Stati Uniti Uniti c'è una legge per cui se il cane diventa emotional support, cioè è un cane di supporto emozionale, deve e può stare sempre con il padrone. Ma scusami, non volevo interromperti subito, ma ogni cane è di supporto emozionale per ogni proprietario? Dovrebbe. Sì, io sono molto d'accordo, però diciamo che nel caso specifico c'è bisogno di una certificazione di un medico. Sì, certo. E quindi in quel momento diventa appunto diventa supporto emozionale dal punto di vista clinico. Ok, quindi diciamo che se una persona ha necessità di avere il cane, ma questo perché magari non so, paura dell'aereo, per che cosa? Supporto emozionale? Di solito è paura dell'aereo, oppure attacchi di panico, posti molto affollati, queste cose qui. È perfetto Bello. Per me. Ma questo quindi solo per chi vola verso gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti in Italia o altrove? Sì, esattamente. Cioè, diciamo che vale solo nei voli da e per gli Stati Uniti e all'interno degli Stati Uniti. Comunque gli Stati Uniti sono un paese abbastanza grande, quindi per andare da New York a Los Angeles sono 6 ore e quindi insomma in quel caso il cane aiuta. Okay. Ma scusa, questo vale se per esempio volessi partire da Milano per andare a Los Angeles o a New York? È una legge che vale solamente in America, questo l'ho capito, ma anche solo per le compagnie americane? O si no, anche per l'Italia adesso. Ah, fantastico. Vedi, però devi essere cittadino americano. Ma no. No, assolutamente no. Ma aspetta, quindi che il medico che ti fa la certificazione è stato un medico degli Stati Uniti o un medico italiano? Un medico italiano. Beh, ma vedi, favoloso. Cavoli, fantastico. Andiamo, come si chiama, così lo chiamiamo? Non so se è molto contento se poi glielo facciamo. No, infatti allora, non diciamolo perché non sappiamo se si può dire il nome, giusto? È questo che stai dicendo, maledetta? No, nel senso che in realtà ogni medico, ogni analista o psicologo, cioè di solito sono questi tipi di medici qua, nel senso analista, psicologo, psichiatra, sono coloro che certificano che possono. E che possono. Senti, scusa una cosa, nel 2009 però in America è nata la Pet Airways, che era questa compagnia America, appunto la primissima dove i proprietari potevano viaggiare con i loro animali, con i loro cani, anche se erano più di 10 kg, invece di metterli nella stiva, nella gabbia e tutto quanto. Da quello che leggo io su Google dice che le uniche tratte che poteva fare era Atlanta, Baltimora, Washington, Chicago, New York, ma a te risulta che esista ancora? Non che io sappia, nel senso che non l'ho mai sentita prima. Diciamo che negli Stati Uniti il trasporto del cane sopra 10 kg, o diciamo se diventa più grande di una borsa, diventa molto complicato. Sugli autobus non ci possono andare, sui treni non ci possono andare, quindi comunque secondo me ci sono magari delle compagnie ad hoc, ma io questa non l'avevo mai sentita prima. Okay, vabbè, nasceva nel 2009, Pet Airways, adesso andiamo a vedere se esiste ancora, perché sarebbe fantastico, insomma, però, perché con i treni sapere. Fai... Però con vedi, lì soltanto all'interno degli Stati Uniti si muove questa compagnia, da quello che ho capito, no? Questa sì, però iniziamo con tutti i cani che iniziamo. Ci sono, secondo me la gente prenderebbe anche più volentieri l'aereo. Senti, Benedetta, ma... so che gli Stati Uniti hanno questa cosa che uno dice come sempre, vabbè, sono avanti come sempre, però allo stesso tempo la tua esperienza negli Stati Uniti ti dice che non è affatto un paese pet friendly. No, per nulla, nel senso che rispetto all'Italia o all'Europa o in tutti i paesi che io ho viaggiato col mio cane ci sono tantissime restrizioni, almeno nello stato di New York, nel senso che appunto avendo un cane che è una taglia media, 22 kg, allora, in generale i cani non possono entrare in alcun bar e in alcun ristorante. Ah, ma dai. Vedi? Cioè, di default questo. Cioè, uno sa già che non può entrare col proprio cane. Non è che ti devono dire, no, esci. Cioè, proprio tu non puoi entrare, punto. No, è una legge dello Stato di New York che riguarda, diciamo così, il Health Department. Perciò quella parte lì che dice, no, i cani, nessun animale può entrare. Vedi. A volte i ristoratori chiudono gli occhi, nel senso che magari se hai un cane piccolo dentro la borsetta, allora ti fa sedere, però in generale no. Però l'America è talmente grande che spesso io ricordo quando andavo frequentemente che ogni stato ha delle leggi che non è che valgono per tutti quanti gli stati. Magari queste restrizioni sono solamente nello stato di New York, e in altre zone non sono così rigidi. Sì, Sì, quello anche secondo me, nel senso che la mia esperienza è appunto nello stato di New York, poi non viaggio molto, non vado negli altri stati con il mio cane, e quindi così, secondo me nelle parti un pochino più rurali sono un po' più morbidi, ecco, diciamo così. E poi un'altra cosa che loro, cioè che nello stato di New York c'è una grandissima restrizione per quel che riguarda i parchi. I cani non possono entrare in tutti i parchi, prima di tutto, anche se sono pubblici, e poi possono stare senza guinzaglio dalle 9 di sera alle 9 del mattino. Ah, vedi? Che senso? Però è già qualcosa, perché in realtà in Italia i cani non potrebbero mai stare senza guinzaglio, a meno che non abbiano la museruola. Questo è quello che dovrebbe esserci. Poi in realtà li liberiamo perché ci affidiamo un po' al buon senso, no, dei proprietari. Io vedo che la gente chiude un occhio, perché sennò, insomma, un cane che non puoi liberare, che vita fa? Ha necessità di star libero. Mentre negli Stati Uniti è previsto comunque che dalle 9 di sera alle 9 del mattino tu il cane lo possa liberare. Non è che se il vigile ti vede ti fa... Sì, ho capito, ma dalle 9 di sera alle 9 del mattino... Ma è già qualcosa. Mi pigliano per il culo, scusate il francesismo, voglio dire, per esempio. Molto presto. Sì, no, ma c'è da dire che New York è una città particolare, cioè non è che lasci neanche il cane libero volentieri in giro per strada. Vabbè, Central Park. Central Park, che è una nazione praticamente, è un parco meraviglioso. Non ci sono le aree cani? Perché non mi ricordo. Ci sono delle aree cani, sono piccoline, sono tipo quelle che abbiamo noi in Italia. Però la parte bella, insomma, la mattina, io vivo a Brooklyn, non vivo a Manhattan, e ho di fianco questo parco molto bello, e alle 7:30-8 del mattino lasciarli liberi, devo dire che è molto bello. Ci sono, insomma, queste spianate dove si ritrovano tutti i proprietari dei cani con i cani. Perché fino alle 9 alle 9 sei già in ufficio, quindi quella passeggiata del mattino te la puoi fare col tuo cane libero, non ti dice nulla nessuno, ma magari facessero la stessa cosa in Italia. Sì, solo nel parco però. Solo nel parco. Ah, poi tu mi dicevi che in giro vedi tanti collari con le punte rivolte verso l'interno, collari a strane. E tantissimi collari a strozzo. Ecco. Sì, come al solito ci sono le contraddizioni dappertutto. L'America è famosa, no? Perché da una parte le armi le possono comprare chiunque, e da un'altra magari sono più bravi in altre cose. Adesso non mi vengono in mente quali. Nel cinema, per esempio, sono i numeri uno. No, però è interessante questo paragone, no, tra Italia e Stati Uniti, perché noi siamo molto esterofili, noi italiani, cinofilia in particolar modo, no? Quindi diciamo, ah, chissà lì cosa è. Però vediamo che, insomma, ci sono tantissimi collari strangoli, tantissimi collari con le punte, ciò che qui invece non vedi, insomma. Ma purtroppo lì hanno il cinofilo di grido, che è quello che fa televisione, che è un cannibale, quindi è una manifestazione della però l'hanno cultura. Denunciato, quindi adesso lo sanno che tipo è. Ma a me fa più impressione dell'America perché, per carità, io sono l'ultima che deve parlare, i cappellini, gli occhialini, i vestitini per i cani super eccessivi, che li vestono da cowboy, che posso dire, se il cane si diverte non gliene frega niente. Il cane non si diverte, alcuni cani non gliene frega niente, altri invece la patiscono veramente, quindi ad Halloween c'è qualsiasi cosa. Halloween è quello che viene proposto, diciamo così, nei vari negozi di cani, da Jedi per Star Wars a qualsiasi cosa vi possiate immaginare. Ho visto qualche foto su Instagram, l'ho vista così, queste cose. Va bene, Benedetta, io intanto ti ringrazio. Grazie. Magari ci aggiorni sulle evoluzioni della cinofilia negli a Stati New Uniti. York. Sì, esattamente. Nei prossimi mesi. Grazie mille. Grazie infinite. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Bella, no, questa cosa di potersi portare finalmente il cane in aereo. Ma fantastico, ma tu non volevi mica, lo dico? Non lo dico? No, non dirlo, perché che cosa... i progetti van detti quando si realizzano. Comunque, Vara, c'è un progetto fantastico, che il giorno che si realizzerà saremo tutti noi amanti degli animali, delle giraffe, degli elefanti, dei cani e dei lombrichi, tutti felici, assolutamente sì. Invece un'altra cosa ti volevo dire, che io... quando fumavo, visto che grazie a Dio ho smesso. No, e con mia cugina soprattutto, che fuma tantissimo, anzi Ale, devi smettere, perché qua c'è una notizia che ti riguarda. Ci siamo sempre dette, madonna, non fumiamo in macchina o in casa, che i cani, secondo me, dà fastidio. Noi così abbiamo pensato, se dà fastidio a noi il fumo passivo, darà fastidio pure agli animali. E cioè, invece... non soltanto crea problemi, non soltanto dà fastidio. Esatto, e invece secondo te? Invece sì, è così. Ecco, io volevo vedere se eri attento. Caspita, cioè, se un polmone pure quelli, no? E infatti, a sottolineare il caso, è stato un oncologo presso l'Istituto di Veterinaria dell'Università di Glasgow, che da tempo, a capo di uno studio sul fumo passivo, ha scoperto che sia per i cani che i gatti, ma comunque gli animali in genere, il fumo passivo agirebbe negativamente sulle loro cellule, favorendo la possibilità di sviluppare forme tumorali ai polmoni pure loro, poverini. Quindi tutti i fumatori, tutti quelli che in casa spippettano in continuazione con il cane lì, con la pipa, il sigaro, la sigaretta. Forse solo la marijuana non fa male, eh? Birichina. Cavoli, diciamo vuol dire. No, cose. Adesso poi non vorrei dire. No, adesso a parte gli scherzi, il fumo passivo fa male a tutti, anche ai nostri cani e ai nostri gatti, anche ai canarini e ai pappagalli, però. Tumori al naso è molto frequente, purtroppo. E soprattutto pensa nei cani, nei colli e nei levrieri. Perché sembra che abbiano individuato un gene marcatore delle cellule colpite dal tumore anche all'interno dei testicoli dei cani maschi castrati. Oh, ma caspita! Quindi ragazzi, già che fa bene smettere di fumare a noi personalmente. No, veramente. Guarda, tra l'altro quando formo educatori cinofili dico loro non fumate prima delle vostre sessioni di coaching perché vi rimane il fumo addosso, sulle dita. Questo può essere sgradevole per il cane ma anche per le persone che non fumano. L'odore è importantissimo nell'associare qualcosa a qualcuno, di gradevole o disgradevole, molto importante. Non solo fra esseri umani e cani, ma anche fra esseri umani. Detto ciò, vi ricordo la nostra mail, ma prima di ricordarvela, tu c'hai un libro? Sì, ho un libro che volevo consigliare, si chiama Il piccolo libro della vita, istruzioni per l'uso, di Neil Donald Walsh, che i nostri ascoltatori ricorderanno per aver scritto la celebre trilogia di Conversazioni con Dio. È un libro molto bello perché parla di relazioni, magari approfondiremo un pochino nelle prossime puntate. Bello. Edito dal Punto d'Incontro. Tu l'hai letto? Lo sto leggendo adesso. Ok, così poi mi farai un riassunto, grazie. Bellissimo, bellissimo. E intanto buona domenica a tutti, restate con Radio 24. Se volete scriverci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. E noi ci vediamo. Alla prossima domenica. Ciao. Ciao.